Siamo con il musicista Filippo Gatti, del quale è uscito il nuovo album e sarà in concerto insieme ad altri artisti sabato 14 aprile al Nuovo Cinema Palazzo nell'ambito dei festeggiamenti dei 7 anni di liberazione di quello spazio. Filippo, benvenuto. Ciao Federico, ciao a tutti, grazie. Allora, partiamo dall'album La testa e il cuore, ce lo racconti un po'? Che vi devo raccontare? No, diciamo, innanzitutto, vabbè, è un disco che ho pubblicato dopo quasi 6 anni che non pubblicavo niente, quindi ti immagini quante cose ci sono dentro e se dovessi raccontartelo io dovrei fare stare tutti quanti anche 5-6 ore sdraiati davanti alla radio. Però cosa che si può fare con la vostra radio, secondo me, però non ora. No, è un album nel quale, diciamo, la sintesi è che ho messo insieme un po' le cose che avevo fatto sui due album precedenti, diciamo, ce n'era uno più sperimentale che si chiama Tutto sta per cambiare, uno un po' più folk che si chiama Il Pio della Cameriera, e questo qui mischia un po' i due livelli, quindi è un po' elettronico, sperimentale, un po' folk come l'altro, e mette insieme queste due anime, da qui anche un po' il significato del titolo. Senti, ma visto che sono passati così tanti anni dall'ultimo, era concepito come concept e quindi tutti i brani sono stati pensati e realizzati in funzione di un album? Questo, diciamo, c'è questa traccia, diciamo, sotterranea di lettura, nel senso che in generale, per vari motivi anche autobiografici, io sono sempre stato abbastanza appassionato della figura di Ulisse. Anche i due dischi precedenti hanno molti brani che sono in maniera velata, poetica, riferiti ad episodi che hanno a che fare con l'Odissea. In questo disco qui questa cosa l'ho tirata fuori in una maniera più, dal mio punto di vista, molto più evidente, e quindi è come se fosse, diciamo, una sintesi di questa mia riflessione sulla storia di Ulisse, il ritorno di Ulisse a Itaca, una cosa di questo tipo. Quindi dentro il disco ci sono questa simbologia, racconta un po', lega tutti i brani ed è leggibile anche da questo punto di vista. Poi, però, essendo brani un po' poetici e non proprio definiti con scrittura, poi ognuno li può interpretare come vuole, ovviamente, però diciamo c'è questo filo qui. Quanti sono i brani dell'album e poi quanti gli strumenti, di cui ti sei avvalso? Ma diciamo, i brani sono 10, di cui 2 strumentali, le canzoni sono 8, e ho lavorato con dei musicisti molto bravi, molto importanti di diversi, quindi un produttore che si chiama Matteo Tincà, che è un polistrumentista fantastico, mio fratello Francesco Gatti, che anche lui ha suonato un po' tanti strumenti diversi nel disco, il pianista Fabio Marchiori, una voce femminile di una ragazza molto giovane che ho scoperto recentemente a Roma, con cui sto collaborando, che si chiama Virginia De Patti, e il violino fantastico di Steve Lunardi. Quindi è elettronica, basso elettrico, chitarra elettrica, piano acustico, chitarra acustica e 2 voci e violino. Per chi ci ascolta, ripercorriamo anche brevemente il tuo percorso musicale, Filippo. Devo fare una specie di mini biografia. Esatto, un bignami della tua musica. Diciamo che io sono un musicista che ha iniziato a lavorare negli anni 90, quando ancora la musica indipendente aveva un po' di capacità di emergere. Ho fatto un gruppo che si chiamava Electro Joyce, con questo gruppo ho fatto 3 dischi dalla metà degli anni 90 fino alla fine degli anni 90, poi ho sciolto questo gruppo e ho iniziato una carriera solista da un lato, diciamo, con dei dischi, appunto, come ho detto, pochi e molto motivati, e dall'altro ho iniziato una carriera come produttore artistico, e quindi ho lavorato con vari altri artisti collaborando ai loro dischi, tra cui, diciamo, quelli che ho più cuore perché sono degli artisti con cui ho un rapporto più profondo, sono Riccardo Sinigaglia e Bobo Rondelli, con i quali ho fatto vari tipi di interventi artistici come autore, come produttore. Senti, hai alcuni artisti di riferimento a livello artistico? Sì, cioè, ovviamente come ognuno di noi che fa questo lavoro ce n'ha tantissimi, è difficile quasi scegliere, però diciamo a livello internazionale, non lo so, io sono un fan di Van Morrison, adesso ne parlavo poco fa, nel senso non fa una musica simile alla mia apparentemente, artista che io ho seguito sempre come guida per molti aspetti, ma ce ne sono tanti altri che mi piacciono. Però adesso, se devo scegliere un nome, dico, mi piace molto Van Morrison. E a livello, diciamo, italiano, ovviamente sono legato a tutti i grandissimi cantautori che hanno lavorato tra gli anni, diciamo, 60-70 fino all'inizio degli anni 80, quindi Paolo Conte, forse più di tutti, Battiato, Lucio Dalla, Battisti, Ivan Graziani, Bruno Lauzi, ne potete dire 100. Sì, sì. Recentemente quelli che lavorano oggi, a parte quelli che io conosco personalmente e che stimo, tipo quei due pazzi che ti ho nominato prima, ci sta questo pischello che si chiama Francesco Motta, che ho conosciuto in questi ultimi tempi, che ha lavorato con Riccardo, che Riccardo me l'ha presentato, e credo abbia fatto un disco veramente bellissimo, appena uscito. Rispetto all'attività dal vivo, è una dimensione che ti piace, che seguirai anche per questo lavoro? Sì, l'attività dal vivo ovviamente, certo, mi piace tantissimo. Ultimamente poi abbiamo creato, diciamo, un sistema di diciamo tecnico che mi permette di fare dei concerti molto ben rappresentati dal punto di vista del suono. Non ti so spiegare adesso perché, però diciamo ho creato con mio fratello un sistema che mi permette di suonare in maniera profonda e con un suono che mi piace molto, e quindi ho voglia di portarlo dal vivo. Chiaramente sappiamo tutti che non è facilissimo fare attività concertistica in Italia per delle persone che non sono all'interno di un certo tipo di promozione ufficiale. Diciamo, me potete dove mi trovate, venite, perché potrebbe essere l'ultima volta che sono, ogni volta è l'ultimo concerto, però questa è una figata. Senti, prima citavi Ulisse, la foto di copertina con la donna bendata e tu in riva al mare con quel cappello in testa sono dei richiami evidenti. Beh, pronto, mi senti? Sì, sì, ti sento. Ok, sì, diciamo... quella lì, quella donna in copertina, quella è una foto che è stata fatta a mia moglie Arianna Gaudio, che è un'attrice che tu conosci, certo, durante un servizio fotografico, e che mi ha molto colpito, perché James Joyce, quando ovviamente il mio gruppo si chiamava Electro Joyce, quindi un po' questa cosa è sempre stata il mio filone, quando ha scritto l'Ulisse aveva un occhio bendato perché aveva avuto un'operazione all'occhio, quindi quando io ho visto quell'immagine, che per me in un colpo solo era sia la, diciamo, la mia personale Penelope, chiamola così, diciamo, e una specie di simbolo dello scrittore Joyce quando ha scritto l'Ulisse, eccetera eccetera, vedo quella foto e dico assolutamente questa qui deve essere la copertina del disco, e da lì è nato un po' questo concept fotografico con la fotografa fantastica Lucrezia Testa Giannilli, che ha, come dire, realizzato questo servizio e un video su questa idea qui, fatto dallo storico John Rosman, che ha fatto video straordinari negli anni 70, è stato uno dei pionieri della storia del videoclip, e abbiamo creato questa specie di micro concept. La foto poi è stata trasformata in quadro da Oscar Corsetti, che è un artista che conosco, che fa questo da tanti anni, cioè dipinge con acquarelli delle foto digitali, e abbiamo creato così la copertina. Tornando invece al concerto di sabato 14 aprile, sarai sul palcoscenico insieme ad altri artisti. Cosa hai in mente, Filippo? Ma allora, dunque, la questione è molto semplice, nel senso, siccome io ovviamente sono felicissimo di dare il mio supporto al Cinema Palazzo, perché è uno dei posti più liberi e più belli che ci sono a Roma. Ogni volta che il Cinema Palazzo ha chiamato io sono andato, perché ci tengo, è bellissimo, ci ho visto un sacco di cose belle, sono persone veramente libere, in gamba, per me è preziosissimo che esistano posti così in una città come Roma, ma in generale, e quindi di conseguenza ho detto immediatamente sì, nonostante io questa sera sia a fare un live a Radio Popolare a Milano, che tra l'altro approfitto per dire che se qualcuno in streaming se lo vuole sentire, non lo può sentire, e torno a Roma, diciamo, all'ultimo secondo, e non ho la disponibilità dei miei musicisti per domani sera, ho detto sì comunque, quindi andrò sul palco con un atteggiamento piratesco e inventerò lì quello che farò, che non ho 20 minuti, ma ora vediamo, magari faccio una versione di Walk on the Wild Side di 20 minuti, cioè non ho ben presente, diciamo non vengo con, purtroppo non, occasione non sono con il gruppo, poi sarò con più musicisti in futuro, ma a me piace fare concerti diciamo sempre diversi, cioè non con una formazione fissa, cercando sempre di inventare la cosa a seconda del luogo, a seconda dell'emozione della serata, credo che questo dia valore al concerto. Filippo, in chiusura diamo i tuoi riferimenti web per saperne di più? Sì, diciamo, io penso di avere, non sto scherzando, una pagina che si chiama Filippo Gatti Official, sulla quale ogni tanto pubblico qualche informazione, e poi ho un Instagram, che si chiama Filogat, che mi piace abbastanza perché comunque non sono uno che comunica tantissimo anche, diciamo, sul web, però sono curioso e lo guardo e alla lunga, diciamo, qualche messaggio riesco addirittura a rispondere, diciamo, a qualche messaggio, quindi questa è la mia situazione. Filippo, un abbraccio, è stato un Un abbraccio, piacere e grazie. speriamo a presto. Grazie, a presto, un abbraccio veramente. Ciao, ciao a tutti.